Storie italiane. L'uccello d'oro. C'era una volta un re che possedeva un albero di mele molto speciale, unico al mondo. L'albero era ricco di mele d'oro. Ogni giorno il giardiniere contava le mele e le consegnava al re. Sua maestà, manca una mela! Il re si arrabbiò molto quando il giardiniere lo informò della mela scomparsa. Il ladro sarà punito severamente. Quella notte il giardiniere mise il figlio maggiore a guardia del melo. Ma verso la mezzanotte il figlio maggiore si addormentò. La mattina seguente mancava una mela. Oggi metterò il mio secondo figlio per fare la guardia all'albero di mele. Giunse la notte e anche il secondo figlio del giardiniere si addormentò verso la mezzanotte. La mattina seguente, come di consueto, mancava una mela. Gli altri due figli del giardiniere si offrirono di sorvegliare l'albero quella stessa notte. Vieni, ladro di mele, affrontami! Mentre l'orologio intoccò la mezzanotte, si sentì un fruscio nell'aria e un uccello volò. Era d'oro puro. E mentre stava prendendo una delle mele con il becco, il figlio del giardiniere fece un gran balzo e scoccò una freccia. La freccia non colpì l'uccello, ma sfiorò una delle sue piume d'oro che cadde a terra. L'uccello volò via. La piuma d'oro fu portata al re al mattino seguente e fu indetto un consiglio. Tutti erano d'accordo sul fatto che valesse più di tutte le ricchezze del regno. Una misera piuma è inutile per me. Devo avere l'uccello intero. Chi di voi ha il coraggio di portarmi quell'uccello d'oro? Il figlio primogenito del giardiniere accettò questo compito. Bravo! Il figlio maggiore si mise alla ricerca dell'uccello d'oro. Camminò finché giunse in un fitto bosco dove vide una volpe seduta. Impugnò il suo arco per scagliargli una freccia. Non colpirmi, ti prego. Io ho per te delle preziose informazioni. So qual è la tua missione. Tu devi ritrovare il magnifico uccello d'oro. Cosa? Ascoltami bene. Raggiungerai un villaggio questa sera. Vedrai due locande, l'una di fronte all'altra, una delle quali è molto piacevole e bella da guardare. L'altra è molto squallida da vedere. Devi scegliere quella mal ridotta per riposare la notte. Ma il figlio pensò: che cosa può sapere questa volpe della mia missione? Quindi scoccò la sua freccia in direzione della volpe, ma la mancò. La volpe corse nel bosco. Il giovane se ne andò e giunse al villaggio dove vide due osterie. E in una di queste c'erano persone che cantavano, ballavano e festeggiavano. Ma l'altra sembrava molto sporca e povera. Dunque pensò: sarei proprio uno sciocco ad alloggiare in una squallida locanda. Così entrò nella locanda e mangiò e bevve. Si dimenticò dell'uccello e anche del suo paese. Il tempo passò e mentre il figlio maggiore non tornava, il secondo figlio partì e gli accadde la stessa cosa. Incontrò la volpe, gli diede il consiglio, ma quando arrivò alle due locande, il fratello maggiore lo condusse nella bella locanda. Entrò e allo stesso modo dimenticò l'uccello d'oro e il suo paese. Il tempo passò di nuovo e anche il figlio più giovane desiderava cercare l'uccello d'oro. Per favore, padre, lasciami andare. Ma suo padre aveva paura. No, giammai, io ho perso due figli. Ma tu non mi perderai, padre. Fidati di me. Alla fine il giardiniere acconsentì e quando arrivò nel bosco, incontrò la volpe ed ascoltò lo stesso buon consiglio. Recati nella vecchia locanda se vuoi catturare il magnifico uccello d'oro. Grazie, vecchia saggia volpe. Seguimi e vedrai che raggiungerai il posto velocemente. Presto raggiunsero il villaggio. Il figlio alloggiò nella vecchia locanda e si riposò tutta la notte. Al mattino giunse di nuovo la volpe e gli diede un altro buon consiglio. Prendi la strada di fronte a te finché non raggiungerai un castello, davanti al quale giace una intera truppa di soldati profondamente addormentati. Non badare a loro, entra nel castello e troverai una stanza. Vedrai una gabbia di legno dove l'uccello d'oro si poggia. Vicino ad essa si trova una bella gabbia dorata, ma non cercare di cambiare la gabbia, altrimenti tu te ne pentirai. La volpe allungò la sua coda. Il giovane si sedette e velocemente raggiunse il castello. Entrò e trovò la camera proprio come descritto dalla volpe. È davvero una cosa molto strana portare via con me un uccello così bello in una gabbia così squallida. Ma non appena aprì la porta per cambiargli la gabbia, l'uccello emise un forte urlo allertando i soldati addormentati. Fu fatto prigioniero. Il mattino seguente la corte si sedette per giudicarlo e quando furono ascoltati i fatti, lo condannarono a morte. Oh, re misericordioso, per favore, risparmiami! Sarai risparmiato a una condizione. Portami il cavallo d'oro che riesce a correre veloce come il vento. E ti risparmierò la vita e in cambio ti darò il mio uccello d'oro. Partì per il suo viaggio. Quando la sua amica volpe lo incontrò. Vedi cosa succede quando una persona non accetta e non ascolta il mio consiglio? Ma tu sei un bravo ragazzo, quindi ti aiuterò ancora. Per trovare il cavallo d'oro, devi andare dritto finché non arrivi al castello dove si trova il cavallo nella sua stalla. Al suo fianco giace profondamente addormentato e russante il suo guardiano. Porta via il cavallo in silenzio. Ma assicurati di mettergli in groppa la vecchia sella di cuoio e non quella d'oro che troverai accanto. Tutto andò bene, ma quando il ragazzo guardò il cavallo pensò: gli darò la sella d'oro. Sono certo che se lo merita. Ma mentre prendeva la sella d'oro, il guardiano si svegliò e gridò forte, così che tutte le guardie corsero dentro e lo fecero prigioniero. Fu condannato a morte. Tutto si ripeté di nuovo. Se tu riuscirai a portarmi una bella principessa, ti risparmierò la vita e potrai anche avere l'uccello e il cavallo. Quindi andò per la sua strada e incontrò di nuovo la vecchia volpe. Se mi avessi ascoltato, avresti portato via sia l'uccello che il cavallo d'oro. Comunque, ti aiuterò ancora una volta. Vai dritto e arriverai in un castello. Recati da lei e dalle un bacio. A mezzanotte la principessa va a fare il bagno e lei si lascerà avvicinare. Ma abbi cura di non farla soffrire. Bada solo che non saluti suo padre e sua madre. Il ragazzo giunse al castello. Tutto era come descritto dalla volpe. Durante la notte il giovane incontrò la principessa e le diede un bacio. La principessa accettò di scappare con lui. Ma lei implorò con molte lacrime di permettergli di prendere congedo da suo padre. Alla fine il giovane acconsentì, ma nel momento in cui entrò nella casa di suo padre, fu fatto di nuovo prigioniero. Non avrai mai mia figlia, a meno che in 8 giorni non elimini la collina che impedisce la vista dalla mia finestra. La collina era così grande che nessuno al mondo poteva eliminarla. Dopo 7 giorni, il ragazzo aveva fatto ben poco. Rimase seduto senza speranza quando la sua amica, la volpe, venne di nuovo per aiutarlo. Va a dormire, amico mio. Tranquillo, lavorerò io per te. Al mattino la collina era sparita. Il re felice diede sua figlia al giovane. Entrambi i ragazzi uscirono dal castello ed incontrarono la volpe. Tu puoi avere tutti e tre. La principessa, il cavallo e l'uccello. Davvero? Ma come? Ascolta attentamente. Vai dal re e consegna la principessa. Lui ti sarà molto grato. Monterai il cavallo d'oro e stringerai la sua mano per prenderne l'atto scritto. Per ultima, stringerai la mano alla principessa. Quindi monta prontamente sul cavallo e galoppa via il più velocemente possibile. Recati al castello dove è l'uccello d'oro. Io starò con la principessa davanti al portone, accudirò il cavallo d'oro e il re porterà con sé l'uccello. Di che vuoi guardarlo per capire se è il vero uccello d'oro. E quando lo prenderai in mano, vai via! Tutto accadde come disse la volpe. Grazie ancora, amico mio, per il tuo buon consiglio. Sono davvero in debito con te. Se è così, ti prego, amico mio, uccidimi. Che cosa? Non farò niente del genere. Tu sei il mio grande amico. Ok, se è ciò che desideri, accetta un buon consiglio. Stai attento a due cose sulla via del ritorno. Non comprare carne da forca e non sederti vicino al grande fiume. Cavalcò con la principessa finché alla fine arrivò al villaggio dove aveva lasciato i suoi due fratelli. Lì sentì un gran rumore di tamburi. Vide che due uomini dovevano essere impiccati. Curioso, si avvicinò e scoprì che i due uomini erano i suoi fratelli, che erano stati accusati di furto. Prendi pure tutti i miei soldi, ma risparmi i miei fratelli. Dopo aver salvato i suoi fratelli, tutti si recarono nel bosco dove la volpe li incontrò per la prima volta. E i due fratelli dissero: sediamoci al bordo del fiume e riposiamo un po' per mangiare e bere. Il consiglio della volpe era di non sedersi sul lato del fiume. Mentre il giovane non sospettava nulla, i due fratelli lo spinsero e lo gettarono giù per la riva. Presero la principessa, il cavallo e l'uccello e proseguirono il viaggio verso il castello del re. Oh, grande sovrano, siamo tornati con l'uccello d'oro e altro. Tutto ciò l'abbiamo ricevuto con il nostro lavoro. Il re si rallegrò molto, ma il cavallo non mangiava, l'uccello non cantava e la principessa piangeva. Il giovane che fu gettato dalla riva del fiume era salvo, per fortuna. Il letto del fiume era quasi asciutto, ma la riva era così ripida che non riusciva a trovare alcun modo per arrampicarsi. La vecchia volpe venne in suo soccorso. Se tu mi avessi ascoltato, nessuno ti avrebbe mai fatto del male. Ebbene, tu sei amico mio, non posso lasciarti qui. Quindi, afferra la mia coda e tienila forte. La volpe salvò il ragazzo. I tuoi fratelli hanno meditato per ucciderti. Essi si trovano al castello. Così si vestì da mendicante e si recò segretamente alla corte del re. Appena dentro le porte, quando il cavallo cominciò a mangiare, l'uccello cominciò a cantare e la principessa smise di piangere. Si recò dal re e gli raccontò tutta la verità sui suoi fratelli. Furono presi e puniti e al giovane gli fu data di nuovo la principessa. Dopo la morte del re, divenne l'erede del suo regno. Dopo tanto tempo, un giorno si incamminò nel bosco e incontrò la vecchia volpe. Lo supplicò con le lacrime agli occhi di ucciderlo. Per favore, amico mio, ti chiedo questo grande favore. Ti prego, fallo. Il giovane re accettò e uccise la volpe, che si trasformò magicamente in un uomo. Che altri non era il fratello della regina, che finalmente era libero da un incantesimo. Così che tutti insieme vissero felici e contenti.